Europa 24. Buongiorno da Gigi Donelli. C'era parecchia attesa a Londra per l'intervento di Angela Merkel. Ieri la stampa britannica indicava che il discorso avrebbe di fatto rassicurato la posizione particolare, speciale, storica del Regno Unito in Europa. Beh, in realtà Angela Merkel ha parlato diversamente. Poco fa ha detto: l'Europa non pagherà il prezzo per mantenere il Regno Unito nell'Unione Europea. Così, parlando alle Camere riunite, poi ha detto: c'è bisogno senz'altro del Regno Unito, ma ha invitato Londra a svolgere un ruolo attivo, un ruolo proattivo, anzi, nella costruzione europea. Insieme possiamo cambiare l'Europa per il meglio. Insomma, un'indicazione diversa da quella attesa e probabilmente più in linea anche con una politica europea a fronte di un paese che ha più volte manifestato sia storicamente l'euroscetticismo, ma anche recentemente nella politica del governo Cameron, con l'idea appunto del referendum per la permanenza nell'Unione Europea. Questo per quanto riguarda proprio gli ultimi minuti da Londra, poi avremo approfondimenti in proposito. E sul fronte ucraino invece, l'Unione Europea deve trovare i modi per controbilanciare gli effetti nelle misure di ritorsione adottate dalla Russia. Questa invece è la posizione scritta nella risoluzione approvata oggi dalla plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. Ovviamente in essa si invita da una parte a dare sostegno finanziario a Kiev nel più breve tempo possibile assieme a Fondo Monetario e Banca Mondiale, e dall'altra a sostenere i processi indipendenti contro chi ha commesso crimini contro i cittadini. Dunque, naturalmente l'Ucraina in primo piano, così come la missione europea, la missione londinese anzi, di Angela Merkel. Nello stesso tempo i commenti sulla direttiva tabacco approvata ieri. Ieri infatti il Parlamento ha approvato a stragrande maggioranza la nuova direttiva, che entrerà in vigore nel 2016. Non tanto fermare i fumatori incalliti, ma scoraggiare una nuova generazione dall'iniziare a fumare. Questo è lo scopo della direttiva approvata ieri dal Parlamento europeo a stragrande maggioranza. Ora gli Stati avranno 2 anni di tempo per recepirla. Tra le novità, oltre alla scritta sui pacchetti, arriveranno delle immagini shock. Non verranno più venduti pacchetti da 10 che piacciono tanto ai ragazzi, e saranno abolite le sigarette al mentolo. La Commissione ha diffuso alcuni dati, 700.000 morti all'anno, e l'effetto di questa direttiva, dice, sarà un calo del 2% del consumo di tabacco in 5 anni, pari a circa 2,4 milioni di fumatori in meno nell'Unione Europea, con un risparmio di 506 milioni di euro l'anno in assistenza sanitaria. Dove ci sono state delle visioni diverse fra Consiglio e Parlamento è stato sulle sigarette elettroniche, confessa la parlamentare laburista inglese Linda McEwan. Nel caso di quelle considerate prodotto di consumo, la direttiva lascia ai singoli paesi il diritto di regolarlo come vogliono, ma impone che siano chiari sulle confezioni gli avvisi per i rischi alla salute. Per le sigarette elettroniche, che si presentano invece come presidi medici, dovranno essere sottoposte alle autorizzazioni del caso e vendute in farmacia, come avviene già in 15 paesi, tra cui Germania, Francia e Belgio. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Niente Erasmus per gli studenti svizzeri a partire dal prossimo anno accademico. Le domande che i ricercatori svizzeri presenteranno per avere accesso ai fondi del programma Horizon 2020, come viene detto ufficialmente dalla Commissione, saranno trattate come quelle di paesi terzi, cioè piazzate in fondo alla lista. Sono le prime serie conseguenze della guerra tra UE e Svizzera dopo il referendum del 9 febbraio scorso, quando il 50,3% dei cittadini elvetici ha chiesto a Berna di tornare a chiudere le porte all'immigrazione e imporre quote annuali anche all'interno dell'Unione Europea. Insomma, niente Erasmus per gli studenti svizzeri nel 2014-2015. E infine una notizia che riguarda la prostituzione. Punire i clienti delle prostitute deve diventare uno dei principali strumenti di lotta alla prostituzione nei paesi dell'Unione. Lo sostiene il Parlamento Europeo, che oggi ha votato a larga maggioranza una risoluzione non vincolante che sollecita gli Stati membri a sanzionare i clienti e non le prostitute. Staremo a vedere, per ora è tutto. Dunque, la linea allo sport. Europa 24 torna domani. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.